Sono le 13. GR24, il sole 24 ore, edizione extra large. Crescita possibile, ma servono riforme, dice il governatore di Banca Italia Draghi nella relazione annuale. Il PIL nel 2009 calerà del 5% e la disoccupazione potrebbe toccare il 10%. Fiat sull'occupazione Opel, abbiamo già fatto il possibile, non prenderemo rischi inusuali. Forse Magna pensa al ritiro e entro le 14 General Motors dovrà fare chiarezza sui conti della controllata tedesca. Incendio su un traghetto Tirrenia nella rotta Napoli-Palermo, messi in salvo passeggeri ed equipaggio, oltre 500 persone. Tre paracadutisti italiani feriti in Afghanistan durante uno scontro a fuoco, nessuno è in gravi condizioni. Criminalità organizzata e immigrazione, ne discute il G8 Interni e Giustizia a Roma, piccola manifestazione di protesta al grido di siamo tutti clandestini. Il governatore della Sicilia Raffaele Lombardo presenta la nuova giunta, arrivano magistrati e imprenditori, fuori Cuffaro. Giro d'Italia, oggi la decisiva tappa del Vesuvio. E benvenuti anche oggi a questa edizione di GR24 Extra Large. Buona giornata da Anna Migliorati ed Alessandra Tedesco. E in primo piano dunque l'assemblea annuale di Banca Italia con la relazione del governatore Mario Draghi, una relazione che ha fotografato lo stato di crisi del paese. PIL in caduta del 5% nel 2009, ma la relazione di Draghi fa anche le previsioni sul futuro e indica delle ricette. Allora andiamo a Roma. Vincenzo Miglietta, tu hai seguito la relazione di Draghi, quali i punti fondamentali? Sì, buongiorno. Guarda al futuro, alla possibile crescita economica, il numero uno di Via Nazionale. Invita ad avere fiducia il governatore della Banca d'Italia, fiducia nei mercati, nel futuro di milioni di persone, nel contratto sociale che ci lega, dice Mario Draghi. Dalla metà di marzo la situazione è per un certo senso migliorata, fa capire il governatore, che vede una possibile ripresa per il 2010. L'uscita dalla crisi, spiega tuttavia Draghi, è legata alle riforme. Ascoltiamo allora questo passaggio. Il completamento degli ammortizzatori sociali, la ripresa degli investimenti pubblici, le azioni di sostegno della domanda e del credito che sono state oggi delineate avranno gli effetti sperati se coniugati con riforme strutturali. Non solo per dire ai mercati che il disavanzo è sotto controllo, ma perché queste riforme costituiscono la piattaforma della crescita futura. Riforme strutturali e tenuta dei conti pubblici dunque in primo piano per uscire dalla crisi, congiuntura negativa che però, spiega Draghi, ha affossato il prodotto interno lordo, meno 5% quest'anno, con effetti negativi sull'occupazione. Sentiamo allora le stime sul lavoro del governatore della Banca d'Italia. Si stima che 2/5 delle imprese industriali e dei servizi con 20 e più addetti ridimensioneranno il personale quest'anno. La riduzione sarà probabilmente maggiore nelle imprese più piccole. Per oltre 2 milioni di lavoratori temporanei il contratto giunge a termine nel corso di quest'anno. Più del 40% è nei servizi privati, quasi il 20% nel settore pubblico, il 38% è nel mezzogiorno. I lavoratori in cassa integrazione e coloro che cercano un'occupazione sono già oggi intorno all'8,5% della forza lavoro, una quota che potrebbe salire oltre il 10%. Serve una riforma organica degli ammortizzatori sociali, ribadisce ancora il governatore. Il capitolo imprese e il flusso del credito, poi, per il sistema industriale, spiega Draghi, i prossimi mesi saranno decisivi soprattutto per il mondo delle PMI. Il ruolo delle banche in questa fase di crisi economica avverte il numero uno di Palazzo Koch. Serve lungimiranza da parte degli istituti di credito nel valutare il finanziamento da dare alle imprese, evitando quindi eccessive restrizioni nell'offerta del credito. E da Roma è tutto, linea allo studio. E grazie a Vincenzo Miglietta. Dunque gli spunti, molti moniti, l'avete sentito, arrivati da Draghi, era ampia la platea ad ascoltarlo. E allora, quali sono state le prime reazioni? Paola Cavadi. Sì, buongiorno. Buone, se non ottime, le reazioni al discorso del governatore della Banca d'Italia. Gli industriali condividono l'appello alle riforme, ma soprattutto il richiamo del governatore alla lungimiranza rivolto alle banche nella concessione del credito. Il presidente di Confindustria, Emma Marcegaglia, ha condiviso in particolare il passaggio sulle riforme, senza le quali, ha detto Draghi, non ci sarà ripresa una volta superata la crisi. Ma sentiamo il commento del presidente di Confindustria. Noi riteniamo che il tema della coesione sociale sia un tema molto importante, il governatore ha detto non cambiamo tutto, manteniamo le casse integrazione che è importante e lavoriamo anche su un'indennità, lavoriamo sulla riforma delle pensioni, quindi facciamo un ridisegno complessivo, quindi lo condividiamo. Mi è anche piaciuto molto il riferimento al fatto che rischiamo di perdere un pezzo del nostro sistema produttivo, soprattutto quello delle piccole e medie imprese, per asfissia finanziaria. Anche i sindacati hanno apprezzato la relazione del governatore. Il segretario della CISL Bonanni condivide molti dei passaggi della relazione, in primis quello sulla riforma degli ammortizzatori sociali e sulla necessità di sostenere i consumi. Particolarmente soddisfatto del discorso del numero uno di Palazzo Cocchi, il segretario della CGIL Epifani, secondo cui il governatore ha offerto un quadro onesto della crisi e dei rischi sull'occupazione. Ma sentiamo le parole del segretario della CGIL. È una relazione, devo dire la verità, che è piaciuta, perché c'è un quadro onesto della crisi, non ha sottaciuto soprattutto i rischi per l'occupazione e le industrie. E in secondo luogo ha detto una verità, che gli unici che continuano a pagare più tasse sono lavoratori dipendenti e pensionati, in un calo dell'imposizione degli altri. Quindi l'ho trovata un richiamo fermo, serio, anche quando chiede al governo di fare un po' di più. Grazie allora alla nostra Paola Cavadi, collegata appunto da Roma. Intanto oggi sono usciti altri dati economici. Questa mattina infatti l'Istat ha diffuso le stime preliminari dell'inflazione per quanto riguarda il mese di maggio. Siamo a più 0,9% di inflazione, questo è il dato sulla base annua, quindi rispetto all'anno precedente. E il dato più basso, pensate, dal novembre del 68. Ad aprile infatti l'inflazione si era attestata all'1,2%. E voltiamo pagina, ma restiamo sempre a Roma, perché nella capitale oggi c'è un altro appuntamento importante, il G8 dei ministri degli interni e della giustizia, un'altra tappa di avvicinamento al G8 dell'Aquila. Chiara Di Michele, quali sono qui i temi sul tappeto? Sì, buongiorno. La criminalità organizzata è il tema centrale della prima sessione di questo vertice. Tra i ministri del G8, interni e giustizia, si è registrato ampio consenso sulla proposta italiana di aggressione ai beni della criminalità organizzata. Lo hanno riferito ai giornalisti i ministri dell'interno e della giustizia, Maroni e Alfano, durante una pausa della riunione. Convergenza anche sul contrasto alla pirateria. La proposta italiana è di trovare luoghi internazionali dove combatterla. Nel pomeriggio è in programma la seconda sessione dedicata ai temi migratori. Ecco Chiara, per domani è annunciata una manifestazione dei No Global, oggi invece com'è la situazione sul fronte proteste? Sì, la capitale è in allerta, gli agenti delle forze dell'ordine sono schierati nei punti nevralgici della città, infatti si attendono azioni dimostrative da parte dei No Global. Si tratta però di dimostrazioni a sorpresa. Questa mattina, ad esempio, una cinquantina di persone al grido "siamo tutti clandestini" ha protestato davanti all'anagrafe in via Petroselli. Lo stato di allerta quindi rimane anche per il pomeriggio. Programmata e autorizzata invece la manifestazione di domani, sarà un corteo concentrato sul tema del razzismo. È tutto, restituisco la linea. E grazie a Paola Cavadi. Non più allerta, Chiara, è andata Di Michele. Tutto bene. Chiara Di Michele. Oggi un po' di confusione, tutte donne in questo GR extra large. Davvero, oggi facciamo un GR al femminile. E continuiamo così, perché abbiamo un altro tema. Non più allerta, dicevamo, è tornato tutto tranquillo sulla bordo del traghetto della Tirrenia diretto a Palermo, dove questa mattina è scoppiato un incendio. Passeggeri tutti salvi. Ma sentiamo allora cosa è successo. La scintilla all'alba nel garage sotto il ponte 6. Probabilmente un'auto che ha preso fuoco, la cella frigorifera di un tir. Le fiamme in poco tempo si sono propagate ad altre vetture, poi hanno avvolto la nave. Era partita ieri sera da Napoli la Vincenzo Florio della Tirrenia e diretta a Palermo, ma si è fermata all'altezza di Ustica. Tutti salvi, 526 passeggeri, tra cui una scolaresca, hanno raggiunto il porto siciliano dopo essere stati trasferiti su un traghetto Sardegna della SNAV e su alcune motovedette della Guardia Costiera. Tra loro non ci sono feriti, anche se 5 persone sono state accompagnate in ospedale per problemi respiratori. Adesso sull'imbarcazione sono rimasti soltanto una trentina di uomini dell'equipaggio, che stanno aiutando i vigili del fuoco a spegnere l'incendio. Secondo la Capitaneria di Porto, la nave approderà a Palermo intorno alle 2 di questo pomeriggio. Sulla vicenda sono state aperte 2 inchieste, una penale della Procura del Capoluogo siciliano, l'altra amministrativa del Ministero dei Trasporti. Non è la prima volta che su questo traghetto avvengono incidenti. Nel novembre del 2004, uno dei motori della nave aveva preso fuoco. Micaela Nasca, GR24, e Sole 24 Ore. La nave di cui stavamo parlando era partita da Napoli. Noi ora andiamo a Napoli, ma per una notizia decisamente più piacevole. Parliamo del Giro d'Italia che oggi passa appunto dal Vesuvio. Spesso abbiamo detto negli ultimi giorni che le tappe erano importanti, ma questa sembra veramente fondamentale. È così, Dario Ceccarelli? Sì, Alessandra, sì, buongiorno agli ascoltatori. Sì, questa volta deve essere proprio così, perché ormai a parte il Giro sta finendo, quindi prima o poi si dovrà pure risolvere. Però oggi si va sul Vesuvio. Il Vesuvio è una tappa importante perché negli ultimi 13 chilometri c'è un'ascesa che è piuttosto ripida, molto pendente, insomma, che può decidere le sorti della corsa. Come ricorderete, la corsa si divide in un fazzoletto di secondi, c'è in maglia rosa Menchov, il russo, e a 26 secondi Danilo Di Luca, che è il vero antagonista della maglia rosa. Oggi può essere veramente lo scontro che decide, perché in 26 secondi tutto può succedere. Sfida veramente all'ultimo, eh? Siamo arrivati all'ultima tappa. Sì, forse addirittura si potrebbe arrivare ancora un po' più in là, perché domenica si va al Colosseo, dal Vesuvio al Colosseo, c'è proprio tutta l'Italia in queste due tappe, no? Sui Fori Imperiali. E lì c'è un cronometro di 13 chilometri e eventualmente, se non si risolvesse con il Vesuvio, potrebbe anche finire proprio addirittura sul filo di lana domenica a Roma. Però io credo che oggi l'eruzione sarà oggi sul Vesuvio. E quindi tappa tutta da seguire, ovviamente, come sempre. E poi la nostra breaking news all'arrivo di tappa, oggi, come avete sentito, quanto mai importante, lo speciale giro, come di consueto, alle 19. 13:16, riprendiamo con GR24 Extra Large. Rapidamente riepilogo di quanto abbiamo detto nella prima parte di Extra Large. Abbiamo parlato della relazione annuale del governatore di Banca Italia Draghi, che ha detto che la crescita è possibile ma servono le riforme. Per quanto riguarda invece la situazione attuale, ha detto che il PIL nel 2009 calerà del 5% e la disoccupazione potrebbe addirittura toccare il 10%. Reazioni molto positive sia da parte di Confindustria che da parte dei sindacati. In particolar modo il presidente di Confindustria Marcegaglia condivide l'appello alle riforme. Abbiamo poi parlato dell'incendio su un traghetto della Tirrenia che era partito da Napoli ed era diretto a Palermo. Sono tutti in salvo i passeggeri e l'equipaggio, oltre 500 persone. E poi abbiamo parlato del G8 Interni e Giustizia che si svolge oggi e domani a Roma. Si parla di criminalità organizzata e di immigrazione. E riprendiamo con la trattativa per Opel. Alle 14 scadrà l'ultimatum per General Motors, che dovrà presentare i conti, ma al di là di questo c'è davvero ormai un tormentone per quanto riguarda Fiat e Magna, le due offerte per ora in lizza. Non è stata ancora presa nessuna decisione, la Fiat non è fuori dai giochi, ha voluto però precisare il governo di Berlino, dopo che questa mattina dall'Ingotter era arrivato qualche segnale, se non altro, di freno nella trattativa. Il presidente Luca Cordero di Montezemolo, a margine della relazione di Banca Italia, ha parlato infatti così. La Fiat ha fatto tutto quello che doveva fare in funzione dell'offerta estremamente interessante, industriale, per creare il secondo gruppo automobilistico del mondo. Importante per Opel, importante per la Fiat. A questo punto chi di dovere farà le sue valutazioni, oltre non possiamo andare. Tra l'altro proprio in queste ore siamo impegnatissimi in America con una sfida straordinaria, ma che fa tremare i polsi, quella di Chrysler, e quindi chi dovrà decidere valuterà. Noi quello che dovevamo fare l'abbiamo fatto in funzione di un progetto industriale. Sull'altro fronte, quella della casa austro-canadese Magna, anche qui arrivano in qualche modo segnali, se non altro, di cautela, almeno stando all'edizione online del quotidiano tedesco Bild, secondo cui Magna potrebbe addirittura gettare la spugna nella corsa all'acquisizione della Opel. Dunque entrambe le case frenano e tutto a questo punto è in mano ai tedeschi. Bede Romano in collegamento con noi da Francoforte. Allora, qual è la sensazione a questo punto? Ma la vicenda Opel ha avuto fin dall'inizio due aspetti: l'aspetto di trattativa con i potenziali acquirenti, che sono fondamentalmente Magna e Fiat, e il secondo aspetto invece è l'aspetto finanziario, perché attraverso il fallimento di General Motors il governo tedesco ha sempre pensato che bisognasse creare una specie di prestito ponte a favore di Opel per evitare ricadute finanziarie e giuridiche per la filiale tedesca. Mosca. Allora, negli ultimi giorni ci siamo concentrati sul primo aspetto, sulle trattative con i potenziali acquirenti, ma improvvisamente negli ultimi due giorni il secondo aspetto è diventato molto più importante e sta influenzando proprio anche la trattativa di Opel e del governo tedesco con i potenziali acquirenti. Se sia Fiat che Magna in questo momento hanno un po' frenato è perché non hanno le idee chiare sull'aspetto finanziario, l'aspetto di finanziamento ponte a favore di Opel. Questo aspetto è cruciale soprattutto per il governo tedesco, che ha deciso di non volere mettere più di 1,5 miliardi di euro sul tavolo. Avremo alle 4 del pomeriggio oggi a Berlino una riunione a cui parteciperanno le parti coinvolte, in particolare il governo tedesco e il governo americano, e capiremo a quel punto, dopo questa riunione, quale sarà il futuro di Opel. Due le possibilità: il prestito ponte va in porto e a quel punto il governo potrà tornare al tavolo delle trattative con i potenziali acquirenti. Seconda possibilità: il prestito ponte non va in porto e a quel punto Opel potrebbe seguire la casa madre e presentare istanza di fallimento in Germania. C'è un altro orario in qualche modo che aspettiamo, lo dicevi tu, le 16 di questo pomeriggio. È però l'ennesima riunione, l'ennesima tappa. Beda, secondo te ci siamo o i tempi saranno ancora lunghi per una decisione? Io ho il sospetto che non ci siamo ancora, almeno per quanto riguarda il potenziale acquirente di Opel. Ho l'impressione che i tedeschi apprezzino i piani Fiat e Magna, ma sono ancora incerti sulla loro bontà e sulla loro solidità. Due giorni fa il portavoce del governo ha spiegato che c'è naturalmente un terzo piano, ed è un piano di cinesi, di una società cinese, una casa automobilistica di Shanghai, e il governo tedesco ha detto che il piano formale, completo, di fusione con Opel di questa società verrà presentato la settimana prossima. Quindi questo significa che il governo, almeno per quanto riguarda gli acquirenti, non ha ancora chiuso la partita. Tant'è che, dicevamo poco fa, c'è anche una dichiarazione proprio di pochi istanti fa da Berlino, che dice però Fiat non è definitivamente fuori dalla gara, quindi diciamo che Berlino prende tempo, ma allo stesso tempo non vuole lasciare andare né Magna né Fiat in attesa di capire cosa faranno i cinesi. Assolutamente, il governo tedesco è in una difficilissima posizione, perché da un lato vuole evidentemente salvare questa azienda, non vuole l'insolvenza, soprattutto in un anno elettorale, quindi vuole tentare di salvarla, ha bisogno degli acquirenti, ha bisogno di società che si facciano avanti per acquistarla. Dall'altra parte però ha deciso, probabilmente giustamente, di non dare più soldi nel prestito ponte a favore di questa società, e quindi si trova in gravi difficoltà, stretta da una parte da un governo americano che probabilmente non sta aiutando. E si rende perfettamente conto della posizione dei potenziali acquirenti, che a questo punto non sanno più che pesci prendere e hanno lanciato evidenti segnali di freddezza. Grazie Beda Romano, la sensazione è quindi che continueremo a parlare molto anche nei prossimi giorni del tentativo di acquisizione di Opel. Sicuramente oggi dopo le 16. Grazie a Beda Romano. Dalla Germania andiamo all'Aquila. E sì, perché all'Aquila si attendeva questa mattina il premier Berlusconi, ma arriverà solo nel pomeriggio. Il perché ce lo spiega Marcello Ianni. Sì, buongiorno. Come dicevate voi, il presidente del Consiglio Silvio Berlusconi ha saltato per impegni improvvisi la cerimonia di consegne delle lauree alla memoria per 25 studenti fuori sede deceduti nel terremoto dell'Aquila. C'è da dire però che ieri, con una nota, 8 famiglie avevano contestato l'iniziativa, accusando lo Stato di non aver protetto i giovani morti dentro i palazzi trappola. Famiglie che oggi non hanno partecipato alla cerimonia che si è svolta nell'auditorium della scuola della Guardia di Finanza. Per noi non è stato un gesto simbolico, ha detto il prorettore dell'Ateneo, un segno formale, ma un doveroso riconoscimento ai nostri studenti, che avrebbero certamente meritato il diploma di laurea completando gli studi. Le lauree in ingegneria e architettura sono state consegnate ai familiari dei giovani studenti studenti, come dicevamo, morti nel sisma del 6 aprile, dal preside di facoltà Pier Ugo Foscolo, che ha rimarcato come la figura degli scomparsi debba essere l'esempio di altri che quotidianamente si impegnano negli studi. Erano vicini alla meta, ha aggiunto Foscolo, è per questo che abbiamo raccolto parti delle loro tesi per conservare le loro tracce. Il loro ricordo mi aiuta a non mollare. Subito dopo Don Luigi, cappellano dell'università, ha celebrato la Santa Messa in suffragio, sempre nella scuola delle Fiamme Gialle. E proprio in questo momento il premier Berlusconi, scusate, ha lasciato la scuola della Guardia di Finanza, dove ha brevemente incontrato Bertolaso, per portarsi all'ospedale dell'Aquila per inaugurare la riapertura di alcuni padiglioni realizzati a tempo di record. Nel pomeriggio prevista la conferenza stampa. Grazie Marcello Ianni, collegato con noi dall'Aquila. Intanto intorno a Berlusconi ci sono ancora le discussioni e le polemiche. Oggi in edicola il settimanale L'Espresso e Nicolò Ghedini, avvocato difensore del premier, annuncia azioni giudiziarie. Una ricostruzione assurda, destituita di ogni fondamento. Risponde così Nicolò Ghedini, avvocato difensore del premier, a quanto pubblicato oggi dall'Espresso. Il settimanale ricostruisce, con racconti raccolti dietro la garanzia dell'anonimato, la festa di fine anno del 2007 nella villa in Sardegna di Berlusconi. Secondo l'Espresso, 50 ragazze tra i 20 e i 30 anni avrebbero raggiunto la residenza con voli privati da Roma e Milano. Pranzo allietato dalla musica di Mariano Apicella, shopping nei negozi della Costa Smeralda, regali e corso di politica. Frequentazioni che, però, sostiene l'Espresso, avrebbero provocato parecchi problemi al premier. Le ragazze, non aiutate ad entrare nel mondo dello spettacolo, infatti, avrebbero minacciato successivamente Berlusconi di far scoppiare uno scandalo. A sostegno di questa tesi, il settimanale cita il procuratore aggiunto di Napoli, Paolo Mancuso, che nel rinviare a Roma le carte sull'inchiesta Sacca riferisce di 4 telefonate che avrebbero potuto configurare un ricatto ai danni del premier. Telefonate dell'attrice Evelina Manna a Berlusconi, che però i giudici romani hanno già valutato come irrilevanti, interpretandole come un semplice sfogo della ragazza. Il settimanale pubblica anche una telefonata inedita dell'attrice del dicembre 2007. Nella conversazione il cavaliere avrebbe chiesto alla Manna di non rispondere alla stampa in merito all'indagine Sacca, mentre l'attrice protesterebbe per la freddezza di lui. L'avvocato Ghedini intanto annuncia azioni giudiziarie, spiegando che la difesa non è mai stata in possesso di queste intercettazioni. Katia Caramelli, GR24, Il Sole 24 Ore. C'è un'ultima ora che arriva da Roma, riferita alle proteste riguardo al G8 Interni e Giustizia, che si svolge oggi e domani nella capitale. Oltre 50 manifestanti no global sono entrati nella Basilica di Santa Maria Maggiore. Molti di loro espongono immagini che ritraggono un immigrato che viene definito Saint-Papier, in ricordo insomma dei Saint-Papier francesi che anni fa occuparono alcune chiese di Parigi. All'esterno della chiesa ci sono stati momenti di tensione quando i manifestanti sono stati respinti dagli agenti della Polizia del Vaticano. Naturalmente continueremo a seguire quanto sta accadendo a Roma, sia nel GR Extra Large che nelle prossime edizioni del GR24. Da oggi e fino al 28 giugno all'Accademia di Francia di Roma esposti i disegni del grande regista di C'eravamo tanti amati, una giornata particolare, la famiglia. Stiamo parlando ovviamente di Ettore Scola. Oltre 100 fraschizzi, vignetti, caricature e bozzetti per scenografi, scarabocchi personali, come li ha definiti lui stesso, immagini di una vita. Adriana Fracchi ha intervistato Scola e gli ha chiesto innanzitutto come è nata la sua passione per il disegno. È nata con me quando sono nato io, perché fin da piccolissimo, prima ancora di saper scrivere o leggere, segnavo dovunque, ma anche nei libri, infatti subivo le ire di mio nonno, di mio padre, perché riempivo tutti i bordi dei libri di disegnetti, di facce. E poi ho continuato e quando avevo 16 anni ho portato un quaderno di disegni al Marco Aurelio, che era un giornale satirico molto diffuso, e lì piacquero i miei disegni e divenni disegnatore per il Marco Aurelio. Poi non pensavo neanche che sarebbero mai stati raccolti in una mostra o in una esposizione. Sono pezzetti di fogli che amici e parenti hanno trattenuto invece che buttarli nel cestino come faccio io. Un'altra breve cosa riguarda invece l'onorificenza che riceverà questo nastro d'argento. Pensa di esserselo meritato? Ma penso di sì, forse molti altri ne ho avuti più mirati a vari film. Questo è generico, si parla di onore, vabbè, l'onore non si nega a nessuno. E comunque, secondo lei, in questo momento, in generale, la situazione del cinema italiano si può definire buona o è una situazione critica? Ma io credo che il cinema italiano è sempre somigliato alla vita del paese. Certo, forse dovrebbe stimolare un po' di più i giovani registi. Progetti cinematografici futuri? No, non ho più progetti, lo diceva Jack London, che l'ispirazione non esiste ma va inseguita giorno per giorno con una mazza da baseball. Ecco, forse ci si stanca poi di inseguire l'ispirazione. 13:35 minuti, torniamo in studio con GR24 Extra Large e le principali notizie di oggi. Piace a Confindustria ma anche ai sindacati la relazione annuale del governatore di Banca Italia Draghi, che ha detto crescita possibile ma servono riforme. Ha comunque aggiunto che il PIL nel 2009 calerà del 5% e la disoccupazione potrebbe toccare il 10%. Fiat e Magna tiepide in queste ore sulle trattative per Opel. Abbiamo già fatto il possibile, dice Lingotto, non prenderemo rischi inusuali. E forse Magna potrebbe pensare addirittura al ritiro entro le 14, intanto General Motors dovrà fare chiarezza sui conti della controllata tedesca. C'è stato un incendio su un traghetto della Tirrenia nella rotta Napoli-Palermo all'alba di oggi, messi in salvo sia i passeggeri che l'equipaggio, oltre 500 persone. 3 paracadutisti italiani sono stati feriti questa mattina in Afghanistan durante uno scontro a fuoco, nessuno è in gravi condizioni. Criminalità organizzata e immigrazione, ne discute il G8 interni giustizia a Roma, proteste dei no global, in 50 entrano nella Basilica di Santa Maria Maggiore. Pronta la nuova giunta della Sicilia, il governatore Raffaele Lombardo la illustrerà tra poco. Fuori Cuffaro, questa sembra essere la principale novità. E allora andiamo appunto a vedere in che cosa consisterà la giunta regionale della Sicilia, dopo che qualche giorno fa il governatore Lombardo l'ha completamente azzerata. In diretta dalla redazione agli aggiornamenti da Massimo Di Scienza. Sì, buon pomeriggio. Il fatto che la conferenza stampa di presentazione prevista a Palazzo d'Orléans per le 12:30 non sia ancora iniziata dà un po' la misura della complessità del momento per Raffaele Lombardo dopo la rottura di lunedì con gli alleati. Dovrebbero essere comunque 9 gli assessori ufficializzati oggi, più 3 posti vuoti che Lombardo riempirà più avanti. Della nuova giunta non dovrebbero fare parte gli uomini dell'UDC di Cuffaro, come dicevate da studio, né del Popolo della Libertà, fedeli alla linea ufficiale, quella che parte da Alfano e Schifani, prosegue poi per i coordinatori nazionali Bondi, Verdini e La Russa e finisce nel coordinatore regionale Castiglione. La spaccatura con il partito di Berlusconi dunque è profonda. Da Roma si chiedeva di aspettare le elezioni di inizio giugno per ridisegnare gli equilibri ed evitare furbizie, come hanno scritto i 3 reggenti del PDL in un comunicato questa mattina, ma Lombardo vuole andare dritto per la sua strada, forte dell'appoggio dell'altro uomo forte del PDL siciliano, cioè Miccichè, e dovrebbe dunque varare una giunta con 2 assessori del suo movimento per le autonomie, Di Mauro e Sorbello, 3 del PDL vicini a Miccichè, Bufardeci, Cimino e l'ex AN Gentile, poi 5 tecnici, tra cui l'unica donna, la novità, Caterina Chinnici, la figlia del magistrato ucciso dalla mafia nell'83, poi anche Russo, Ilarda e l'altra novità, Marco Venturi, vicepresidente di Confindustria Sicilia. Il 4 giugno la nuova giunta si sottoporrà alla dei voti in assemblea e allora scopriremo se Raffaele Lombardo avrà la forza per andare avanti oppure se sarà stato un bluff, avrà perso il suo braccio di ferro con il PDL e a quel punto sarà inevitabile il ritorno alle urne. È tutto a voi. Grazie Massimo Di Scienza, ovviamente attendiamo l'ufficialità della conferenza stampa e vi daremo aggiornamenti quando e se ci saranno. Intanto dalla Sicilia andiamo invece a Napoli. Per l'inchiesta sui rifiuti che ora tocca anche il termovalorizzatore di Acerra. Inchieste vecchie e nuove sulla gestione dei rifiuti e la realizzazione degli impianti per lo smaltimento in Campania creano tensioni istituzionali. Il sottosegretario Guido Bertolaso parla di collaboratori e funzionari che potrebbero essere intimiditi da continui interrogatori disposti da magistrati napoletani, interrogatori smentiti dal procuratore capo Giovan Domenico Lepore, che dopo mesi di critiche ha deciso di diramare un comunicato in cui si precisa che tutto è stato fatto nel rispetto della legge e che si continuerà ad indagare secondo le regole. Al centro di almeno una delle richieste di ulteriori informazioni c'è il termovalorizzatore di Acerra, inaugurato il 26 marzo scorso e che nell'arco di 2 mesi ha già superato per 17 volte su 35 consentite il livello di emissioni di polveri sottili. Nonostante tutto, il sottosegretario Bertolaso rassicura: siamo in fase di rodaggio ed è normale. Intanto in provincia di Napoli rispuntano cumuli di rifiuti, la raccolta dei comuni registra difficoltà e non decolla la raccolta differenziata. Laura Vigiano, GR24, Il Sole 24 Ore, Napoli. Risaliamo ancora un po' la penisola per andare in Trentino. Inizia nel pomeriggio la quarta edizione del Festival dell'Economia a Trento. Inizia oggi pomeriggio, ma già questa mattina alcuni premi Nobel si sono dilettati nelle prime conversazioni. Identità e crisi globale, i 12 mesi più burrascosi dell'economia post-bellica sono passati lasciando un segno sul Festival dell'Economia che l'anno scorso aveva fatto discutere gli economisti sul tema mercato e democrazia. Quest'anno non si poteva sfuggire alla recessione e allora la crisi globale è entrata anche nel titolo, affiancata dalla parola identità, con cui si può spaziare dai modelli economici alle analisi sociologiche. Questa edizione promette commistioni, non solo numeri, ma anche fiducia, educazione, religione e territorio, con un tratto distintivo che si conferma anno dopo anno, l'internazionalità. Su 30 lezioni magistrali, più della metà saranno tenute da economisti stranieri. Tre i premi Nobel, Akerlof, Ekman e Spence, ma anche imprenditori come Diego Della Valle, manager come Vittorio Colao e incursioni pacifiche di Slow Food con il suo fondatore Carlo Petrini. Gli organizzatori puntano al tutto esaurito, c'è da dire che sono stati abituati bene da quando il primo anno i giornali titolarono il Festival dell'Economia come un concerto rock e fin qui non sono mai stati delusi. Valeria De Rosa, GR24, Il Sole 24 Ore, Trento. Buongiorno a Giulia Crivelli. Buongiorno. Giulia, per una volta il presidente Obama lasciamolo stare per quanto riguarda le varie crisi economiche di cui spesso parliamo quando parliamo di Stati Uniti, perché vogliamo raccontarlo invece con una chicca che hai trovato tu sui giornali e che riguarda tutt'altro. Sì, l'articolo del Wall Street Journal, l'edizione del venerdì, ha un ampio spazio weekend perché poi al sabato non esce in Europa. C'è un ampio articolo che si intitola Changing the Art in the White House, quindi cambiare l'arte alla Casa Bianca, scritto con dei caratteri come se fossero tratti appunto da un quadro. Sono due pagine in cui si spiega come sia Michelle e Obama, perché su questo sono d'accordo, hanno deciso un po' di rinnovare tutta la dotazione artistica della Casa Bianca. Naturalmente non si tratta di comprare questi quadri, ma di chiederli in prestito ai musei, che sono contentissimi di darli, anche perché in generale gli artisti che vengono, che viene il fatto che questi ci mancherebbe davvero che in tempo di crisi andassero a comprare quadri nuovi. E però qualcuno che poi ne ha beneficio c'è, che è l'artista stesso, perché se sono artisti viventi, e forse a maggior ragione se non lo sono, però in questo caso sono quasi tutti viventi perché arte è strettamente contemporanea, vedono le loro quotazioni salire dopo che appunto vengono ospitati alla Casa Bianca. La cosa divertente, racconta il Wall Street Journal, è che Michelle e Obama sono davvero degli appassionati d'arte contemporanea, e dice addirittura il Wall Street Journal che a uno dei loro primi appuntamenti Obama portò Michelle proprio all'Art Institute of Chicago, che è un bellissimo museo, molto accogliente come sono i grandi musei americani. Appunto, può essere addirittura il luogo ideale per un appuntamento, per uno dei primi appuntamenti di due innamorati. Giulia, per par condicio, abbiamo parlato della First Lady, parliamo della Premier Dama a questo punto. Questa invece è la prima pagina di Le Figaro, c'è una bella foto di Carla Bruni trattino Sarkozy e Bernadette Chirac, quindi la Premier Dame attuale e la Premier Dame precedente. Questo cambio generazionale forse si vede anche nel doppio cognome, no? Anche la signora Chirac sicuramente aveva un suo cognome da ragazza, ma non lo ricordiamo più. Invece Carla, sappiamo, Carla è Bruni ed è anche Sarkozy. Si sono incontrate, hanno parlato a lungo sia del loro impegno soprattutto umanitario, entrambe Carla Bruni Sarkozy, hanno parlato di come è difficile, però anche bello e divertente, essere la Premier Dame, e c'è un ampio servizio fotografico sia sul giornale che sulle Figaro Magazine, che viene allegato alle Figaro al venerdì, e sono entrambe molto sorridenti in questo prato fiorito, una vestita di rosa, l'altra vestita di blu. Insomma, vabbè, un'immagine davvero da fine settimana. Grazie a Giulia Crivelli. Aggiornamenti ancora da Roma, vi abbiamo detto della protesta in corso dei No Global mentre si svolge il G8 sui temi della giustizia. Alcuni No Global stavano cercando di entrare nella Basilica di Santa Maria Maggiore, azione bloccata poco fa dagli agenti della Polizia del Vaticano. La Basilica di Santa Maria Maggiore, dicono i No Global, l'abbiamo scelta per il blitz perché, spiegano i manifestanti, si trova nel quartiere multietnico dell'Esquilino. 13:45, GR24 Extra Large. Andiamo ora a sentire un reportage da Ceuta, enclave spagnola in Marocco, dove un gruppo di migranti indiani è bloccato nella città da 2 anni. È Europa, ma allo stesso tempo non è Europa. La città autonoma di Ceuta, enclave spagnola in territorio marocchino, proprio di fronte a Gibilterra, appartiene alla Spagna ma non aderisce a Schengen. Piccolo paradosso, frutto del passato coloniale, da sempre miraggio, scampolo d'Europa per migliaia di migranti africani, barriera inaccessibile con reti e muri da cui si spara. La linea dura di Zapatero contro l'immigrazione significò nel 2005 stop agli assalti dei migranti, a caro prezzo di vite umane. Da allora è sempre più difficile entrare a Ceuta e in Spagna. Ma non ci sono solo africani che tentano di entrare qui. 74 indiani del Punjab sono bloccati in città da 2 anni, dopo un viaggio biblico di più di 20 mesi attraverso Burkina Faso, Mali, Algeria, Marocco, dopo stenti e morti, dopo violenze dei trafficanti, dopo essersi indebitati per affrontare il viaggio. Volevano raggiungere l'Europa per lavorare. If we found a work in India. Se avessimo trovato un lavoro in India, racconta il loro giovane portavoce Babu, se avessimo saputo quello che avremmo sofferto, che avremmo visto i nostri amici morire, non avremmo lasciato il nostro paese. Se avessimo saputo di dover combattere con altri uomini per un pezzo di pane, che nel Sahara avremmo bevuto acqua mischiata a petrolio, non avremmo lasciato il nostro paese. Spero solo che la gente in Europa capisca che non siamo numeri, siamo esseri umani. Così, dopo più di un anno passato a Ceuta in attesa o di un rimpatrio o di un permesso di soggiorno per motivi umanitari, l'unico che gli si potrebbe accordare, una cinquantina di indiani guidati da Babu si sono accampati per protesta nella foresta sul monte che domina Ceuta, rifiutando l'accoglienza del centro per i migranti. Tende di fortuna, fuochi, il fiume per lavarsi, il caldo e il freddo, per 16 lunghi mesi. Ora attendono una risposta da Madrid e intanto la Spagna si mobilita con petizioni e sit-in per le tigri della montagna, così ribattezzate, che sono già un caso politico. Accogliere o rimpatriare? Questa è la domanda che tutti si fanno qui a Ceuta, estremo avamposto d'Europa in terra d'Africa. Ma mentre vi parliamo, sono in centinaia di migliaia i migranti che da sud viaggiano verso il nord del mondo, sulla stessa rotta degli indiani, ma pronti a trovarne sempre di nuovi. E l'Europa tutta intera dovrà tenerne conto. Giampaolo Musumeci, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Ceuta, Spagna. E in questi minuti, come dicevamo, se ne sta discutendo al G8 di Roma e se ne discuterà anche domani. Andiamo in Afghanistan perché 3 paracadutisti italiani sono stati feriti oggi in un attacco. Secondo quanto riferiscono fonti del contingente, nessuno è comunque in gravi condizioni. Nel corso della battaglia 25 insorti sono stati uccisi, così come 3 militari dell'esercito afghano, 3 sono stati catturati e 6 risultano dispersi. Restiamo all'estero, meglio nella politica internazionale, guardando ai rapporti fra Italia e Iran, dopo che il ministro degli esteri Frattini ha rinunciato alla visita appunto in Iran. Scelta dovuta dopo che Teheran aveva testato un missile a lunga gittata, potenzialmente in grado di colpire Israele, e il presidente Ahmadinejad avrebbe voluto incontrare Frattini proprio nel luogo del test nucleare. A pochi giorni dalle elezioni in Iran, il ministro degli esteri italiano Frattini rimanda la visita a Teheran dopo il voto. L'Italia è troppo succube della politica e delle pressioni di altre potenze? Lo chiediamo a Lucio Caracciolo, direttore della rivista geopolitica Limes. In generale direi di sì. In questo caso specifico non vedo una particolare pressione, nel senso che era ovvio dal punto di vista, diciamo, del ministro degli esteri italiano che non potesse andare in Iran alle condizioni poste all'ultimo momento dal regime iraniano. L'Italia cerca di profilarsi, di recuperare un ruolo nel rapporto con l'Iran, ma non mi pare che né l'America né i paesi europei abbiano un particolare interesse a questo. L'Italia si dice pronta a dialogare con l'Iran. È una strategica mediazione per la stabilizzazione in Pakistan e Afghanistan? L'Italia ovviamente ha interesse a che l'Iran partecipi alla stabilizzazione dell'Afghanistan per un motivo anche molto semplice: il grosso delle nostre truppe è nella zona di Afghanistan dove più forte è l'influenza iraniana, noi siamo di fatto protetti dall'Iran in Afghanistan. Cristina Feggi, R24, Il Sole 24 Ore, Roma. E in Iran restiamo perché il nipote dell'Ayatollah Khomeini ha detto in TV: sono musulmano laico e chiedo uno Stato separato dalla fede. Ce ne parla Adib Fateh Ali. Le elezioni iraniane non sono altro che una farsa dove a decidere chi vince è il governo e non certo il popolo. A dirlo è uno che porta un cognome particolare, si chiama Hussein Khomeini ed è il nipote del padre fondatore della Repubblica Islamica. A pochi giorni dalle elezioni presidenziali del prossimo 12 giugno, Hussein, per la verità noto per il suo dissenso con gli Ayatollah di Teheran, non risparmia neppure il suo nonno, che non avrebbe saputo interpretare la volontà popolare che lo ha eletto a guida suprema. Lo scomodo personaggio si definisce un religioso laico e chiede l'impossibile, una Costituzione rivista in senso laico con partiti di destra e di sinistra che competono in una sfida elettorale trasparente. Non saprei, è stata la risposta del nipote di Khomeini alla domanda del giornalista di Al Arabiya, che ha concluso l'intervista con questa domanda. Dica la verità, lei non è in galera perché sua nonna ha minacciato che in caso di suo arresto andrà in giro senza velo. E queste le principali notizie di oggi. Crescita possibile, ma servono riforme, dice il governatore di Banca Italia Draghi nella relazione annuale. Commenti positivi da Confindustria e sindacati. Fiat e Magna tiepide sulle trattative per Opel. Il lingotto, non prenderemo rischi inusuali. Alle 14 General Motors dovrà fare chiarezza sui conti. Incendio su un traghetto Tirrenia nella rotta Napoli-Palermo. Messi in salvo passeggeri ed equipaggio, oltre 500 persone. Criminalità organizzata e immigrazione, ne discute il G8 interni e giustizia a Roma. Proteste qualche scontro tra polizia e No Global davanti alla chiesa di Santa Maria Maggiore. Il governatore della Sicilia, Raffaele Lombardo, presenta la nuova giunta. 6 assessori confermati, fuori Cuffaro. E siamo così anche oggi alla conclusione di questa edizione di GR24 Extra Large. In studio Anna Migliorati e Alessandra Tedesco. Coordinamento di Daniele Biacchessi, in regia Giorgio Matte. Buon fine settimana, XL torna. XL torna naturalmente lunedì, come sempre, alle 13. GR24, Il Sole 24 Ore. Direttore Gianfranco Fabi.